Estar entre grandes y grandes. pueden escuchar mis palabras. Ragazzi della sua età non gli piacevano perché giocavano ai grandi. E così stava sempre solo. Conigli selvatici, aveva scoperto una piccola spiaggia lontana dal paese, dove il mare era trasparente e la sabbia rosa. Voleva bene quel posto. La natura aveva dei colori così belli e niente faceva rumore. Andava via quando anche il sole se ne andava. Just don't be late.

Thank you. Another day. I'd rather smoke weed. It is difficult to be judged, that to be reviewed. As a teenager, I remember one casting director who later became a producer. I was in the middle of doing a reading for her, and she stopped me and she said, "Listen, you are not pretty enough to be an actress. You have to find something else that you want to do." Question. Thank you. embracing the laws of gravity. overthrow. All this injustice is about to make me choke. We have the right. We have the right to resist this racist, fascist shit. Damn.

cioè buon pomeriggio. Grazie per le vostre aspettative. E questo è l'ultimo concerto degli Arabia Saudaci, che siamo noi. Siamo tristemente felici di essere qui con voi con l'armonica. Eseguiamo 12 brani, uno per ogni nazione del Sud America, fatta eccezione per le Falkland, perché sapete c'è una questione di attribuzione. E cosa? Oh, Malvinas, bravissimo, proprio per questo non lo facciamo sto pezzo. E niente, spero non siate troppo tristi alla